Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'appuntamento con l'economia in Europa si occupa ancora della crisi degli stati sovrani dell'Eurozona, ma anche di banche e di tassi di interesse. Sempre il Portogallo, nel mirino delle agenzie di rating, in Europa attesa per la riunione della Banca Centrale Europea e la prima manovra restrittiva sui tassi di interesse ai minimi storici per l'Eurozona dal 2009. E molto nervosismo in borsa sui titoli bancari, al centro dell'interesse generale, dopo l'esito degli stress test sulle banche irlandesi e gli annunci di operazioni straordinarie sulle capitale fatti da diverse banche sia in Italia ma anche nel resto d'Europa. Cominciamo con la Banca Centrale Europea che questa settimana prevede un aumento dei tassi di interesse per la prima volta dal maggio 2009. I tassi della BCE sono destinati a salire dello 0,75% entro la fine dell'anno, lo ha sostenuto Nouriel Roubini che ha parlato nel corso del workshop Ambrosetti di Cernobbio. Secondo l'economista americano, che ha affermato di non credere a quanto ha detto il presidente Jean-Claude Trichet, che ha negato che l'aumento di aprile possa essere il primo di una serie di rialzi, gli aumenti saranno 3 da 0,25% e proseguiranno nel 2012. Sentiamo Roubini. Capisco il ragionamento della Banca Centrale Europea che probabilmente comincerà ad alzare i tassi di interesse ad aprile per continuare ripetutamente nel corso dell'anno. Un aumento spinto da un tasso di inflazione al di sopra dell'obiettivo fissato dalla Banca Centrale. Ci sono però 5 paesi periferici dove quasi non c'è crescita. O addirittura c'è contrazione, dove ci sono gravi problemi nel settore bancario, dove c'è stata una perdita di competitività e dove occorre tornare sul cammino della crescita economica. Io temo che un aumento prematuro dei tassi possa aggravare la fragilità della crescita e peggiorare il livello di competitività a causa di un euro più forte. Per non parlare poi della debolezza del sistema bancario e dei governi stessi. Per tutte queste ragioni, considero un rischio aumentare i tassi di interesse. Intanto, però, sulla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse, che mira ad iniziare a frenare l'inflazione, da qualche settimana si sta muovendo il rapporto di cambio fra euro e dollaro. Sul cross fra le due divise sulle scelte della Banca Centrale Europea abbiamo sentito Marco Sticchi, portfolio manager di Nemesis Asset Management. La posizione della Banca Centrale Europea si sta distinguendo veramente per il modo di reagire alla situazione macroeconomica ed è una posizione opposta a quella della Fed. La Fed è estremamente lassista nel gestire la politica monetaria, la Banca Centrale Europea è molto più conservatrice, per esempio è abbastanza sorprendente che nella situazione attuale in cui il prezzo del petrolio è sopra 120, quindi siamo a livelli storicamente molto alti, e questo crea un problema inflazionistico sia un problema inflazionistico potenzialmente sia un problema di crescita, la Banca Centrale Europea sceglie di combattere l'inflazione, si preoccupa di meno del rischio crescita. La Fed ha un atteggiamento opposto, fa una scelta diversa, sceglie di proteggere la crescita e si preoccupa meno dell'inflazione. Molto nervosismo negli ultimi giorni in borsa fra i titoli del settore bancario, dopo la notizia che in Irlanda il sistema avrà bisogno di ricapitalizzarsi per almeno 24 miliardi di euro. In Italia molte banche hanno annunciato l'intenzione di procedere sulla strada di rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale con aumenti di capitale. 1 miliardo per UbiBanca, 5 miliardi per Banca Intesa. In Germania l'operazione sarà condotta da Commerzbank per 11 miliardi. Tutto ciò in attesa dei risultati che verranno diffusi in giugno degli stress test sul sistema. E su questo tema il commento dell'economista Donato Masciandaro, la cui analisi parte proprio dalla situazione irlandese. Credo che ormai la situazione per il governo irlandese sarebbe bene fare definitivamente chiarezza, anche perché è evidente che quando c'è una situazione di pericolo di default, a tutti è chiaro che chi presta è lo Stato, cioè il contribuente irlandese. Forse piuttosto che questo stillicidio con gli intervalli degli stress test che danno cattive notizie a intermittenza, forse sarebbe bene fare una doccia fredda e presentare il conto tutto in una volta. Credo che un rimedio immediato, anche perché ricordiamoci che poi le dimensioni relative dell'Irlanda, se pensiamo all'Unione Economica e Monetaria,